Se dal sorriso delle tue estreme labbra, se dalla piega delle tue labbra molli e fuse si allontanasse una verità, io ti chiamerei da lontano e dalle lontananze ti sorriderei simile ad una pecora vicino ad un agnello morto. Se dalle tue labbra uscisse la verità, io veritiera ti chiamerei a me, io veritiera m'allontanerei dalle tue sinuose rimembranze e salperei di nuovo in lontananza se dalle sinuose curve labbra rispondesse un'altra verità. Io riposerei tranquilla nelle tue braccia, abbracciato io la vea, e se le molli frange della sua gioventù non si infransero al mio abbraccio, io non ne morì. Ma se abbracciata io la vea, allora abbracciata io la vea in una agonia di vita che si smorza ad ogni canto delle strade troppo strette, e se abbracciata la vea ottenuta contro le mura delle mie bugie, allora abbracciata io la vea senza un singhiozzo d'amore, ed ora che io abbracciata l'ho avuta, mi si rimira nella testa un singhiozzo di perduta vita, il salmo della gioventù. Allora abbracciata io la veo senza amore, la riconoscenza persa fra le rocce rubate. L'inferno rincorreva che l'abbracciavo, teso come un filo di paglia, accontentato purtroppo di una miserabile stalla, e che la notte scenda amorosa su di lei e stringa dispettosa la mia vecchiaia senza amore. Ma se dalla tua vacuità non esce alcun amore, io non resto allargate le braccia al sole, allargate le tue braccia senza amore, abbracciata io la vea in un abbraccio senza amore, in una notte senza fondo d'amore. Ed io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo, sirena, ci sono solo, e tu suoni e risuoni e risuoni e risuoni, oh chimera, e perciò io ti chiamo e ti chiamo e ti chiamo, chimera, e io ti chiamo e ti chiamo e ti chiamo, sirena.